24 di Giovanni Minoli. 15 anni fa mi sono separata, è finito il mio matrimonio e ho cominciato un periodo abbastanza travagliato, come succede penso sempre in questi casi. E però in quell'occasione io avevo ancora il mio padre spirituale, che poi è ritornato in Brasile, e lui mi ha accolto, aiutato, mi ha insegnato a correre la mattina, anche insieme a lui andavo a correre, per cercare di farmi passare quella depressione che mi stava prendendo. Questo l'ha aiutata. Ho avuto un'accoglienza calda, premurosa e affettuosa. Faceva la comunione? Facevo la comunione, perché comunque ero separata ma sola. Poi? I guai sono cominciati dopo 5-6 anni, quando ho trovato un compagno. E allora cosa è successo? Nessuno dei preti che ho trovato era pronto neanche ad ascoltarmi. Mi trattavano in modo molto rude, cattivo, non mi accoglievano. Mi allontanavano da loro, dal confessionale e dalla chiesa. Non voleva neanche ascoltare la mia storia. Come si è sentita? Ti fa sentire proprio come un reietto. Cosa le veniva detto? Un sacerdote mi disse: io le do soluzione se lei mi giura adesso che va a casa e lascia il suo compagno. E io ho detto: no, non me la sento, farei del male per la persona a cui voglio bene, non penso che vogliate questo. E invece voleva proprio quello. E lei lo ha fatto? Non l'ho fatto, non ho avuto la soluzione. Poi c'è stata una mia malattia che oggi come oggi mi impedisce di avere rapporti sessuali. E questo un po' ha cambiato il mio rapporto con la confessione, nel senso che se io posso dire a un sacerdote il mio compagno è come mio fratello, questo li spinge a guardarmi con benevolenza, a darmi la soluzione e a riammettermi alla comunione. Si è sentita in colpa? Senso di colpa mai, no, amavo e se Cristo è amore io non mi sentivo in torto. Io mi sento profondamente vicina, io mi sento che ogni volta che vado a messa per me è un'esperienza profonda e di gioia. Parole profonde, vere, dolcissime, di una grande anima. Comunione risposati oppure no? Chi ha fallito matrimonio religioso, vive una nuova unione, può accedere all'Eucarestia oppure no? Era questo uno dei temi centrali, forse il tema centrale del sinodo sulla famiglia conclusosi il 24 ottobre. Su 270 padri sinodali, i voti a favore della comunione risposati sono stati 178, contro 177 contrari. Sarà il vescovo locale con i parroci a decidere caso per caso. Giovanna Cozzetti è andata nelle parrocchie per sentire cosa ne pensano i fedeli. Padre, padre. Volevamo una sua impressione sull'esito del sinodo. Ancora non ho letto il... Ecco, ma va data la comunione ai divorziati che si sono risposati. Mi scusi, ma è che sono impegnato adesso, perché è domenica e siamo con lavoro in chiesa. Se il parroco non può, proviamo allora con i fedeli. Non lo conosco ancora, allora... voglio documentarmi, no, non mi fido di lei, non per cattiveria, ma voglio leggere il documento del Papa prima. Io sono divorziata. E le fa piacere questa apertura? Sì, certo. Io sono d'accordo, però soltanto per la comunione a quello dei coniugi che ha subito e non ha provocato lui il divorzio. Basta che loro abbiano la coscienza pulita. Lei è d'accordo? Non sono d'accordo. Io voglio la comunione fatta con la coscienza a posto, non con quelli che fanno i comodi loro e poi vanno a fare la comunione con l'anima nera. Ma nemmeno se c'è un pentimento? Il pentimento deve essere sincero e duraturo, perché se io lo faccio falso pentimento in quel momento per avere la soluzione e poi commetto il peccato la sera quando vado a letto non mi sta bene. Ha sentito il Papa? Le chiese devono avere le porte aperte, devono accogliere di più. Le chiese con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. Io sono della chiesa di una volta, non di adesso. Al modernismo non lo accetto. Beh, io sono un pinguino, perciò mi sposo una volta e solo una volta mi voglio sposare. Il matrimonio è uno e basta, indissolubile dell'eternità. Ma come si mette d'accordo la fede con l'amore o gli amori, diciamo così? Io credo che la fede e l'amore non c'entri niente se per le persone sono sposate o non sposate, no? È indipendente. Hanno fatto bene, era ora che lo facessero. Le religioni si devono adeguare ai tempi, se non facesse così la Chiesa sarebbe crollata. Concordo appieno, accostarsi ai cambiamenti della realtà è giustissimo, utilizzarla per cambiare i 10 comandamenti che sono provenienza divina No. Lei la vedo arrabbiato. È uno schifo. Perché qui sembra che abbiano tolto dalle tavole dei comandamenti il nono comandamento. Ecco, ma perché dite 10 comandamenti? Perché equivale all'adulterio? Eh sì. Ma allora l'accoglienza di cui parla il Papa? Il Papa deve tutelare l'adulterio cristiano, non può essere arbitrio di cambiarlo. Per me quello che ha detto il Papa è giusto e condivido. Una chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Padre Renato, le porte delle chiese per il Papa devono essere aperte, sempre. Quindi anche ai divorziati e risposati va data la comunione? Dipende dai casi, perché se i casi sono molto egoistici, perché devono essere ammessi al sacramento? Ma in occasione del Giubileo e anche del Sinodo, il Papa ha chiesto più misericordia. E soprattutto a voi, ai confessori. Specialmente per i confessori, Tanta misericordia. E quindi lei alla fine cosa farà? La darà? La dottrina della Chiesa è ferma qui. Non si deve dare. Se uno si accorge che quello non deve prendere la comunione, bisogna intervenire. E bisogna vedere il suo cammino di fede, se riconosce prima lo sbaglio che ha fatto. Perché se no diventa una misericordia a buon mercato. E misericordia non deve essere a buon mercato. Dunque nessuna misericordia a buon mercato. Del resto, l'esito stesso del sinodo non è stata l'apertura richiesta da Papa Bergoglio perché la Chiesa incontri la modernità. Un sinodo faticoso, come lo stesso pontefice lo ha definito, iniziato con le rivelazioni di Monsignor Charams. Sono gay ed ho un compagno. Aldo Cazzullo, che ha seguito molto da vicino il sinodo, ci racconta cosa è successo tra i 270 padri sinodali, tra chi si oppone e chi vuole andare avanti, tra depositari dell'ortodossia e progressisti. Io credo che esistano due forme di opposizione. La prima ai vertici della Chiesa, la seconda nella base, tra i fedeli. È chiaro che l'avvento di Papa Francesco ha dato nuova linfa alla Chiesa, nuova popolarità dal punto di vista mediatico e non soltanto, anche dal punto di vista pastorale e spirituale è stata un'iniezione di vitalità formidabile. Però ci sono anche gli oppositori. E queste opposizioni alla fine come hanno cambiato il sinodo che voleva Bergoglio? Il sinodo non è un Parlamento o un Senato dove ci si mette d'accordo. Il sinodo invece è la Chiesa che cammina insieme, che si interroga. Il Papa chiedeva apertura vera, mentre l'esito alla fine è un compromesso. Compromesso nato, ormai noto, all'interno del mondo tedesco. Müller, che guida la Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi il luogo in cui Ratzinger ha imperato per tanti anni, era tra i più critici sul nuovo corso, ma alla fine poi si è trovato un accordo con i cardinali progressisti che hanno avuto la loro punta in Casper e figure di mediazione come quella di Schönborn, come quella di Marx. E gli italiani? Anche alcuni nostri cardinali sono piuttosto chiusi verso Bergoglio, verso la sua visione della Chiesa. In fondo sono anche meno chiusi di come vengono raffigurate, cominciare da Scola, che in realtà poi è un centrista, insomma alla fine poi una qualche forma di incontro si è trovata. Però alcuni, come Ruini, non si sono ammorbiditi tanto, proprio sull'Eucarestia divorziati e risposati. Non c'è dubbio che il cardinale Ruini sia contrario, ad esempio, all'idea di dare la comunione ai divorziati e risposati. Ruini è un uomo troppo sottile per mettersi contro il Papa, però non c'è dubbio che guardino a Ruini persone che si opporranno in modo veemente anche a qualcosa su cui però peraltro Bergoglio non ha aperto, che sono le unioni civili. Ci sarà una battaglia in Italia. E poi c'è ad esempio il mondo di CL che Julian Carron, successore di Don Giussani, ha schierato accanto al Papa. Però ci sono intellettuali, il più noto è Antonio Socci, che è arrivato a scrivere un libro che si intitola Non è Francesco, ma ci sono anche altri intellettuali vicini al CL che invece in questo Papa non si riconoscono. E poi c'è la questione della base dei fedeli, ci sono anche coloro che vedono Bergoglio come il fumo negli occhi. Ma al punto di attaccare la credibilità del Papa con l'idea di una malattia quale un tumore al cervello? Certo, se poi vengono fuori polpette avvelenate come quella della falsa malattia del Papa, allora lì, ripeto, non sto accusando nessuno, sono abbastanza da giornalista sconcertato dall'idea che si dà una notizia, la notizia viene smentita e non succede niente. Beh, uno dei due doveva avere ragione o torto, o ha ragione il giornale che ha scritto questa cosa o ha ragione Padre Lombardi. Ma lo scopo qual era? Accendere un dubbio di demenza, di incapacità sul Papa che invalidasse forse le sue posizioni, le rendesse meno forti? No, no, questo non lo voglio credere. Uno fa il suo mestiere, a volte può sbagliare, l'importante è riconoscere di aver sbagliato. Se invece si insiste nel voler avere ragione, allora però dalla sala stampa vaticana devono cambiare versione. Insomma, mi colpisce un po', ecco, il fatto che questa cosa sia finita apparentemente senza un vincitore o un vinto, mentre qualcuno che doveva avere ragione, qualcuno che doveva avere torto, ci dovrebbe essere. Il Papa però è intervenuto su questo dicendo che lui non ha nessun tumore. Esattamente, quindi noi crediamo al Papa. Un monsignore che si dichiara gay è una presunta malattia del Papa. Colpi di scena che trasformano l'apertura e la chiusura del sinodo in una sorta di spy story. Mentre la Chiesa tutti i giorni deve fare i conti con le storie delle persone. Giovanna Corsetti è andata in un piccolo centro ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, ad ascoltare chi sulla comunione dei risposati è da sempre un disobbediente, Donaldo Antonelli. Lei perché ha fatto la scelta di disobbedire? In parrocchia ho due donne che si sono separate, sono due sorelle. A un certo punto mi fanno: noi per la Chiesa non siamo niente, che cosa veniamo a fare? Si sentono un nulla, capisci? E questa è responsabilità della Chiesa allora. È un omicidio. Questo significa ammazzare le persone nell'animo, farle sentire niente. Tra i parrocchiani di Donaldo c'è anche la compagna di un divorziato, che pur non essendosi mai sposata, vive anche lei una parte dell'esclusione. E come ci si sente? Diciamo che all'inizio, nei primi anni della nostra vita, poi ci siamo molto allontanati dalla Chiesa. Eravamo abbastanza lontani. L'Eucaristia perché è così importante? Riabilita e ridona quella dignità che non può essere mai negata a nessuno, qualsiasi cosa questo abbia fatto nella sua vita. Lei ha mai detto no? Ha mai rifiutato l'Eucaristia a chi si è risposato? No, non l'ho mai fatto. Perché? Più di una volta è capitato di dare la comunione a delle persone risposate, piangevano con lacrime vere. Ha pianto quando ha fatto la comunione con il suo compagno, accolti da Donaldo? Quello è stato un momento di liberazione. Liberati soprattutto da quale peso? Il peso dell'immaginazione, dell'essere diverso e di sentirsi diversi. Tu sei diverso perché sei divorziato. Se l'Eucaristia è una medicina, la si dà a chi è malato. Far accostare all'Eucaristia solo i cosiddetti degni di per sé sarebbe anche una bestemmia. Non ha senso. Siamo tutti indegni. Da sempre però chi si mantiene casto, diciamo nelle seconde unioni, può accedere al sacramento. Lei non lo pretende, perché? Io sono un celibe e penso di essere fedele, ma è una mia scelta. Ma chi non ha questa vocazione è da sadico imporgli un amore casto al di là della sessualità, se non è una scelta personale, peggio della schiavitù. Secondo le conclusioni del sinodo sarà il singolo sacerdote a decidere. Però questo può voler dire anche che in una parrocchia, come per esempio la sua, i risposati possono fare la comunione e in un'altra no. Non le sembra un po' un pasticcio, anche un po' pericoloso? Alcune realtà importanti non possono dipendere dalla coscienza del singolo parroco o dalla sua mentalità o dalla sua più o meno apertura o chiusura. O dalla sua disobbedienza. Mi sono dovuto imporre una disobbedienza proprio perché vedevo che la Chiesa era troppo chiusa in se stessa, troppo autoreferente. Invece la Chiesa deve farsi convertire dalla storia nella quale è coinvolta. Però c'è anche chi nella Chiesa è molto preoccupato per l'ortodossia, non si vuole avere una dottrina debole. Questa gente qua, li conosco, vescovi o cardinali che siano, identificano la loro idea di Chiesa con la volontà di Dio. Se uno osserva in maniera pedissequa, senza la capacità di criticare, a volte anche di disobbedire, è quello che è senza coscienza. Senza questa accoglienza lei sarebbe tornata in Chiesa? No, quella non sarebbe stata la mia Chiesa, quella non è la mia religione. Cioè lei non ci sarebbe andata? No, io non ci sarei andata. Abbiamo scelto una Chiesa diversa, che non ci ha fatto mai pesare questa situazione. Non ha mai paura di essere troppo tollerante con il peccato? No, verso i peccatori. Non verso il peccato. Il peccato è da combattere, è da superare, ma dietro il peccatore ci sono sempre delle persone con le quali non bisogna mai rompere i ponti. Se non sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo per essere inutilmente severi e profondamente ingiusti. Ma anche su questi temi così intensi e profondi la nostra Sora Cesira riesce con la sua ironia e con il suo umorismo a prenderla in un altro modo. Sinodo, sinodo, ma sti vescovi che hanno deciso il sinodo, sinodo, non mi è chiaro, perciò mi spiegate se va in paradiso. Chi tromba, tromba, preferirei stare chilometri lontano da un sagrato piuttosto che sentirmi un pizzico al cospetto di un prelato. Il sesso è quella cosa che per la chiesa è un po' tipo il condominio per Olindo e Rosa, ma c'è questo papa all'avanguardia che però gli dà una pista al sinodo. Dai sinodo, sinodo, siamo grandi, oibò, se non rubo, bestemmio o ammazzo. Dai sinodo, sinodo, di chi amo, perciò in teoria non ti frega un bel nulla, ma il sinodo, oh, sinodo, oh, mi risponde di rimando che anche il gay sta ancora al bando. Il sinodo, dico boh, e nel dubbio però seguo un dogma che sembra un filino pagano, un po' strano. E io che devo fare nel frattempo? E come tutti i venerdì, anche oggi Alessandra Fiori ci racconta che cosa vale la pena leggere, ascoltare, vedere in questo weekend. Libro molto bello che racconta in maniera appassionante e sorprendente oltre un quarantennio della storia libica, ma non solo. È L'ultima notte del Rais di Yasmina Kadra. Il Rais in questione naturalmente è Muammar Gheddafi. È un libro sorprendente perché Yasmina Kadra, che è lo pseudonimo femminile dello scrittore algerino Mohamed Molessoul, in questo suo ultimo romanzo riesce nell'impresa di trasformarsi in Gheddafi, raccontando in prima persona di quella notte tra il 19 e il 20 ottobre di 4 anni fa, era il 2011, quando il colonnello, abbandonato praticamente da tutti, era nascosto a Sirte. A Sirte è stato catturato il Rais. Muammar Gheddafi dunque si nascondeva davvero nella sua città natale, l'ultimo rifugio, la città dove era nato 69 anni fa e da dove era partito per conquistare il potere. Secondo fonti dei ribelli, Muammar Gheddafi è morto. Gheddafi, l'ONU chiede un'inchiesta. Le immagini dell'uccisione di Gheddafi sollevano dubbi e polemiche. Allora, le ultime ore del Rais a Sirte, a breve distanza dal villaggio in cui era nato il 7 giugno del 1942, sono quelle della resa dei conti. Nel buio, nella solitudine, il capo assoluto della Libia ripercorre la sua vita. Il potere, la follia, la crudeltà, ma anche la complessità e la fragilità di un personaggio che nel bene e nel male è stato eccezionale. Colonnello, lei è al potere da 35 anni. Non ha mai pensato che per un uomo solo possa essere troppo? Se io fossi al potere sarei già finito da molto tempo. Io non sono al potere. Il potere l'ho consegnato al popolo libico nel 1977. Nel nome di Dio il compassionevole, il misericordioso, o grande popolo libico! Chi era Gheddafi? Per Yasmina Kadra, un personaggio shakespeariano, il protagonista di una tragedia moderna. La miseria era il mio elemento, fa dire l'autore al suo Rais. E se in seguito ho vissuto nel lusso, l'ho fatto per disprezzarlo e dimostrare così che nessun manufatto prezioso merita di essere santificato, che nessun Graal è in grado di elevare un sorso di vino al rango di pozione magica. L'ultima notte del Rais, di Yasmina Kadra, Sellerio. Ieri al cinema è uscito un film molto divertente, Tutto può accadere a Broadway, di Peter Bogdanovich. Ce lo racconta la nostra inviata molto speciale. I David di Donatella. Che poi sono io. Buongiorno Donatella. Ciao. Dentro al cinema, Certo. Però mi sono spostata. Brava. Allora, ecco. Donatella, tutto può accadere a Broadway. Ah sì, proprio tutto. Infatti sto morendo dalle risate perché c'è una ragazza che si chiama Izzy e vorrebbe tanto fare l'attrice, però per sopravvivere, come molte attrici, è costretta a fare la cameriera. No, la mignotta. No, Donatella, la squillo, la escort. Eh? Lo faccio così per mantenermi alla recitazione. Ho idea che sia davvero molto duro. Duri lo diventano spesso. Ma è disgustoso. Infatti. Però lo sai che da giovane anche mia cognata ha fatto per un periodo La squillo. Ma noi non lo sapevamo mica, ci credo. Senti questa storia divertentissima. No, allora, senta Donatella, mi scusi, ma le dispiace parlarci un pochino del film? Quanto sei eccitata, però sei tutta antipatica, rilassati. Comunque, va bene, nel film Izzy incontra uno che si innamora proprio un sacco. E guarda, c'ha una grandissima botta di culo. Fortuna? Perché è un regista. Se mi giuri che non farai più quello che fai, io ti do 30.000 dollari. Ho un provino per te. Che emozione! Qual è il personaggio? È una squillo. Hai capito? Si è proprio innamorato e gli dà pure una parte in una cosa di teatro dove però ci lavora pure sua moglie. Insomma, tanto innamorato, però la moglie non la lascia. Invece lo sai che ci sta pure quella, la ex di Brad Pitt. Jennifer Aniston. Brava, però non l'avevo riconosciuta. Si è fatta tutta mora. È proprio vero che il biondo aiuta, ma non sai quanto. Anzi, ti devo dire la verità, in questo film lei è un po' cesta. Donatella, va bene. Poi chi altro c'è? C'è Owen Wilson. Owen Wilson. Sì, quello. Carino, biondino, però al posto del naso c'ha una frappa. Ma vale la pena vedere Tutto può accadere a Hollywood? Da morire. Ora lascia perdere che io ho i biglietti gratis. Anzi, non è che ce n'hai pure degli altri che ci voglio portare mia cognata? E come no? Tutto può accadere a Broadway, l'ultimo film del maestro della commedia Peter Bogdanovich, con Owen Wilson, Jennifer Aniston, un cameo di Quentin Tarantino e tra i produttori anche Wes Anderson, al cinema in questo weekend. Se non dici l'ultima parola non sei contenta, è brava. E grazie, Donatella. Ma prego. Ma come tutti i venerdì, ecco Pietrangelo Buttafuoco. Pietrangelo. Buongiorno. Buongiorno. Dove mi porti questo weekend? Dove ti porto? Allora, stavo giusto ascoltando una canzone. A sentirsi soli in una strada, ma a scoprire di non essere soli su quella strada. Sono i Z0 Alfa. Disperato amore è il titolo. E sai dove ti porto? Dove? Perché ho letto un libro assai particolare e assai caro a me. Ti porto nelle fogne. Perché il sindaco Marino cosa aveva detto? Tornate nelle fogne. E tu mi ci porti? Io ci sto tornando e ti porto. Va bene. E ti faccio incontrare. Buongiorno, Angelo Mellone, autore di Nessuna... Dove sei, Angelo? Eccolo, lo vedo. Nessuna sento, croce manca. È un po' buio. Male, perché qua nelle fogne rimbomba tutto. Allora, Nessuna croce manca. Baldini e Castoldi, Angelo Mellone. Pietrangelo, hai letto questo libro? Sì. E ci consigli di leggerlo? Sì, perché una storia è la storia del cattiverio, raccontata da un ragazzo che viene dalla provincia, da Taranto specificatamente, e racconta la destra in Italia. Sai, 3 milioni di italiani. Senta, ma nel suo racconto lei parte da Taranto perché è di Taranto. È davvero così difficile leggere dalla provincia i movimenti del centro, quindi da Taranto a Roma? Quando hai 16 anni, sì, nel senso che Roma ti sembra un posto lontano, quasi esotico. Nel romanzo uno dei protagonisti scopre Evola, Marinetti, Junger, tutti gli autori, come dice Pietrangelo, del cattiverio, semplicemente perché in un bugigattolo di una federazione del movimento sociale trova un catalogo della Libreria d'Europa accartocciato di cinesi e chiricolla. Insomma, ecco, funzionava così spesso nella provincia... Il neo o post-fascismo 25 anni fa. Ma cosa ha significato la caduta del muro allora e cosa significa adesso? Era il grande sogno, no? Il crollo, l'Europa nazione, tutto ritornava. 25 anni dopo uno osserva le macerie di quel sogno e si chiede: ma era un sogno autoprodotto o era un sogno vero? Io credo che fosse un sogno autoprodotto. Senta, ma lei comunque con questo libro racconta l'educazione sentimentale e politica di una generazione tra sconfitte e disillusioni. Mi dice come ha intrecciato finzione narrativa e realtà storica? Ci sono i quattro protagonisti, che sono tre ragazzi e una ragazza, che attraversano la storia italiana degli ultimi 25 anni, diciamo da fine anni 80 al 2012, al crollo del governo Berlusconi, dell'ultimo governo Berlusconi. E io intreccio le loro biografie con i grandi eventi della storia della destra italiana, e loro, che sono sedicenni, diciottenni, ventenni negli anni 80, crescono e diventano quarantenni nella Seconda Repubblica, e quarantenni disillusi e risolti alla fine della Seconda Repubblica. Nessuna croce manca, Baldini e Castoldi, andiamo nella Turrisce Burnia di Julius Evola, e lì, caro Angelo, ti faccio la domanda, siamo sull'alto della torre, chi butti giù? Fini o Alemanno? Minchia. Fini. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Ma per parlare di musica, eccoci di nuovo in compagnia di Franco Schipani. Ciao Alessandra. Caro Franco. Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. Studiava Beethoven e Chopin, e poi il papà a Natale ha avuto la malaugurata idea di regalargli un disco dei Queen, e tutto è cambiato per Cesare Cremonini, il solista, ex frontman dei Luna Pop. Gli appuntamenti con Cesare Cremonini per questo weekend sono oggi a Pesaro alla Adriatic Arena e domani a Casalecchio sul Reno alla Unipol Arena. Sono due appuntamenti da non mancare, Alessandra, perché ne vale la pena. Anche Fred Buscaglione da piccolo ha studiato pianoforte. La gavetta, i locali di bassa categoria, i pasti saltati. Poi negli anni 50 arriva il successo. Poi la sua Thunderbird si schianta all'alba contro un camion. Muore un artista, ma nasce una leggenda. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate in ascolto. Che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, pecora.